siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde! La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Voglio fare all'inizio di questa trasmissione, della trasmissione di oggi, io non so se è in ascolto, di solito si collega con la zanzara, caro Parenzo, un abbraccio fortissimo all'amico Omar Pedrini, di cui sentite qualche nota, perché è stato operato, ha avuto un intervento al cuore, vabbè, insomma, adesso non stiamo a spiegare qui, è un intervento delicato dopo un malore che ha avuto qualche giorno fa. Un abbraccio fortissimo, Omar, speriamo di riaverti presto qui a cantare insieme a noi alla zanzara. E adesso occupiamoci di Froci. Ecco qua. Occupiamo subito. Occupiamo la scena con i Froci. Allora, cosa è successo? È successo che il ministro degli interni Alfano ha detto che non si possono trascrivere i matrimoni gay di persone che si sono italiane, che si sono sposate all'estero dove esistono i matrimoni gay, i sindaci non li possono trascrivere in Italia. È uno scontro politico, al di là dei diritti, di quello che significa la trascrizione, non ce ne frega niente. Alcuni sindaci vogliono i matrimoni gay, Alfano non li vuole. Entrambe le parti utilizzano tutti gli strumenti a loro disposizione. Alfano. Se ci si sposa tra persone dello stesso sesso all'estero, poi quei matrimoni non possono essere trascritti nei registri dello Stato civile italiano, per il semplice motivo che non è ammesso dalla legge, non è consentito dalla legge. Io dico una cosa, sicuramente quella di Alfano è una posizione politica, poteva fare quest'uscita o poteva anche non farla, però non si può dire ad Alfano che è nella illegalità, come dicono alcuni. Alfano è perfettamente nella legalità. Io sono a favore, come sapete, del matrimonio, dell'adozione. Alfano fa il suo mestiere, dice che questi matrimoni sono illegali e che i sindaci non possono trascriverli. E i sindaci devono fare una grande battaglia di disobbedienza civile, come i radicali, come Gandhi, eccetera, e devono andare fino in fondo mettendo a repentaglio la loro poltrona, altrimenti è solo propaganda. Per cui non è, Alfano non è illegale, Alfano è nella legge. Da noi i matrimoni gay non ci sono. Per cui non è che si può trascrivere un matrimonio all'estero facendo finta. Lo si può fare, ma dicendo stiamo andando contro la legge, vogliamo andare contro la legge. Sentite il sindaco di Bologna, Merola, che quasi si mette a piangere, almeno così mi sembra da questa voce che ho sentito, di fronte alla decisione di Alfano di dire stop, non potete trascrivere i matrimoni dei Froci. Noi siamo Bologna, io sono il sindaco di una città che vuole restare aperta e accogliente, è in prima fila nel sostenere i diritti civili. Allora ragazzi, ragazzi, la notizia di oggi, però, una delle notizie di oggi, oltre a questa vicenda di Alfano contro i sindaci sui gay, è certamente la squalifica per 6 mesi del capo della Federcalcio, il signor Tavecchio, che è presidente della Federcalcio Italia, però l'UEFA, cioè l'Europa, gli dice per 6 mesi sei out, sei fuori. Ma vogliamo ricordare il motivo? Per me è una puttanata pazzesca. Ma vi pare possibile che uno possa essere sospeso per razzismo dopo una frase che ha detto? Sicuramente pessima frase, ma non puoi essere squalificato 6 mesi per razzismo. 6 mesi per razzismo, il signor Tavecchio. So che non è simpatico a chi ci sta ascoltando, so che non è presentabile con quella coppola, con quei vestiti un po' demodé, con quel modo di parlare un po' anzianotto, ma uno non può essere squalificato per 6 mesi per una frase del genere, dai. Ma di che stiamo parlando? Su. Le questioni di accoglienza sono un conto, le questioni del gioco sono un altro. L'Inghilterra individua dei soggetti che entrano se hanno professionalità per farli giocare. Noi invece diciamo che Pogba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio. E va bene così. In Inghilterra deve dimostrare il suo curriculum e il suo pedigree. Va bene tutto, quelli che mangiano le banane, per carità, una frase infelice, i mangiatori di banane, poi nel momento più infelice, quando c'era stata la campagna sulle banane di un giocatore del Barcellona, eccetera, sicuramente fuori dagli schemi, noi ci siamo anche accaniti, anzi no, non eravamo in onda, però, caro Parezzo, la squalifica, ti rendi conto? Squalificato per 6 mesi. Un bellissimo segnale. Ma vai a fare in culo, dai, su, ma non puoi, ma no, ma dai. Non hai sentito forse? Ma sì, ho sentito un bellissimo segnale. Un bellissimo eccolo qua. Segnale di civiltà. Il politicamente corretto Parezzo si adegua a quello il che decide. Esattamente il contrario. Dai, tu su. Sei nel mainstream del 90% purtroppo delle persone che chiameranno per ma darti quando ragione. Mai? Ma non è vero, tu vedrai. Mainstream malefico. È una invece... squalifica ridicola, ti bel ripeto, una squalifica ridicola. Comunque. Bel segnale, finalmente. La squalifica in realtà gliel'ha quasi data Crozza imitandolo, perché lo sbeffeggia più Crozza della squalifica di 6 mesi dell'UEFA, diciamo la verità, cioè dell'Europa del calcio. Dato dimostrare che io non ce l'ho mica con gli extracomunitari. Oh, bene, benissimo. Anche se le città per colpa loro sono diventate invivibili. Non come tutti i musi gialli, quelli per esempio i cinesi. Ma che musi gialli? No, allora i cinesi. Sono tutti uguali, che nessuno muore mai. Dicono che. Ma no, allora guardi. Sono grandi lavoratori che però mangiano cani. Ma no, allora no. Rimasta un'ora da. Perché il gatto è più facile da mangiare perché è stronzo. No, allora aspetta. Allora, un po' se lo merita pure lui perché se lo mangi mentre il cane si affeziona al padrone. Sì, ma che quelli sono animali sensibili come i culatoni. No. Poi, poteva prendere la strada. Ma che poi quella... non ce l'ho. Coi froci, che a me i froci sono pure simpatici. Ma no. Che mettono allegria quando li vedi che scolettano col boia, allora, struzzano il collo. Non sembra neanche che sono malati. Io poi li guardi che sembrano malati, invece. Peggiore. Abbiamo dimostrato in laboratorio. Che sono proprio malato, ma io allora, chiaro, io non c'ho niente contro i divertiti che. Come le donne quando in giro con la gonnellina. Non tocchi le gonne. Una in giro con la gonna troppo corta fa vedere la penelessa. No, allora. Che poi è chiaro che poi se la cerca un po'. Ma non era l'occasione. Non per... dico che la donna che è handicappata. Ecco. Che poi il laboratorio abbiamo dimostrato che è handicappata veramente. No, che non se, è anche no. Se sembrava che poi non lo è handicappata. No, infatti. Ecco, no, questo volevo dire. Viva il campionato, viva il calcio italiano. Ha finito Tavecchio. Sulle suore che portano sfiga, dico niente. Ragazzi, intanto continua la guerra Juventus-Roma, dichiarazioni, tweet e tutto. A proposito, Salvini, leader della Lega, dice che si vergogna più dei parlamentari su Roma su Roma-Juve che di Casa Pound, che di frequentare quelli di Casa Pound. Però tra questi parlamentari c'è pure un suo collega, leghista, il signor Buonanno. Anche lui ha chiesto l'intervento dei caschi blu dell'ONU, non so di che cosa, dell'Europa, degli arbitri internazionali. Signor Buonanno, non c'era solo quello che abbiamo intervistato ieri, quello del Partito Democratico, Miccoli. Posso dire che mi vergogno di più di quei deputati che Salvini, hanno fatto delle interrogazioni parlamentari su Juventus Roma che noi di Casa Pampa, amichevolmente, lasciali perdere. Se hanno squalificato Tavecchio per sei mesi, caro Parenzo, se hanno squalificato Tavecchio per sei mesi, cosa dovrebbero fare a questo speaker radiofonico romano? No, ma che c'è un altro caso. Dima, aspetta, stai calmo. Il talento del Milan, il giovanotto. Sì, ma lascia perdere, ma non mi fare perdere la poesia del racconto. Ma quale poesia? Lascia perdere le stronzate che devi dire tu, aspetta un attimo. Aspetta, che mi stanno chiamando al telefono. Allora, questo qua di RTR 99, si chiama Luca Casciani. Sì. Luca Casciani. Senti questa roba lo qua. L'abbiamo ascoltato ieri a Piazza Pulita. No, appunto, se squalificano Tavecchio per sei mesi, questo qua lo devono mettere al muro, cioè il mitra per questo ci vuole. No, dico, chiudere. È un eufemismo naturalmente, cioè una... Chiudere. Senti. Che differenza c'è tra le scimmie di Tarzan che attaccavano i villaggi di colonie e queste scimmie che attaccano un autobus dell'ATAC? Se ti permetti di distruggere un mezzo che fa parte della collettività, la stessa collettività che ti mantiene, brutta sanguisuga schifosa, e qualcuno ti ammazza, io dico che ha fatto bene. Tu ti permetti di aggredire una persona che sta svolgendo il proprio lavoro. Sono questi i comportamenti che ci portano a pensare: quanti ne sono morti? 200 nel canale di Sicilia? Ah. Beh, insomma, speravo di più. Ragazzi, se quello è squalificato per sei mesi, questo qua lo devono mettere al muro, Cioè, lo devono mettere al muro. No. Ho capito, ma se... le leggi che ci sono. Sì, ma cioè che chiudere la radio, che bisogna fare? Chiudere. Beh, qui, in base alla legge Mancino, sicuramente va fermato con le leggi che ci sono, un'istigazione all'odio. Ma non è che lo dico io, ma mi sembra talmente evidente, ma non lo so, ma cioè, ormai non ci si stupisce più di nulla, questo è il fatto, perché è tutto normale, quindi va bene. Non sto dicendo che è normale, sto dicendo che squalificare Tavecchio per nulla a nessuno. No, Tavecchio si vuole. No, io sono per la libertà di espressione sempre in ogni caso. Ma sì. La libertà non è la libertà di. Non ha. Allora, questo tizio qua è una cosa diversa, è una cosa diversa, anche se. Che hai di libertà? Allora, Tavecchio ha semplicemente fatto una. Ma tu sei contento, il fatto che uno ti insulti a te va bene. No, ma chi te l'ha detto questa cosa? Ma come ti deve dire? Se qualcuno si è sentito offeso per le frasi di questo signore o per le frasi di Tavecchio, che non sono certamente uguali, ci sono già le leggi. Ma che Tavecchio, un signore, venga squalificato per sei mesi, certo, per una battuta sui mangiabanane, io lo trovo ridicolo. Ridicolo. È stato squalificato anche il giovanotto Cosimo Marco La Ferrara, questo ragazzino che gioca nel Milan, nei giovanili del Milan, perché ha detto: questo è per te, negro di merda. Lo hanno squalificato per 5 giornate e il Milan è costretto a pagare 5.000 euro di multa. Ma non ha detto negro di merda, Tavecchio. Dai, se avessi detto negro di merda sarebbe stata giusta la squalifica per 100 anni, non per uno. Ha fatto una battuta sui mangiabanane, ma voleva intendere un'altra cosa. Smettila, su, non è la stessa cosa. È una battuta ridicola. Sì, è una battuta ridicola. Tutta una battuta, è sempre. Tutta una battuta. Vabbè, allora squalificatelo per 100 anni. Walter da Roma, dai, Walter. Ma per 100 anni no, che Walter, dai. Oh, mamma mia, che palla, Parenzo. Ti fa sempre 1-1. Ma a parte che per me serti è legittimo l'Emilio Fede, perché se uguale pure come chiacchieri, proprio tutto. Beh, adesso figlio addirittura è legittimo Emilio Fede. Ma visto, è uguale. Vabbè, comunque io sempre da 1-1 metterei dentro la stazione Termini tutto il giorno a fare i biglietti. Quello è il lavoro suo, tutto il giorno là. Comunque vabbè. Ma che c'entra la stazione Termini a fare i biglietti, Parenzo? Perché vuole fare cooperative chi zingari, chi Roma? Ma se si mettessero tutto il giorno a fare un biglietto, vedete, gli rompono i coglioni dalla mattina alla sera. Vabbè, senti, comunque non mi fa parlare, Parenzo, evapora, che c'ho da parlare con Cruciani. Evapora, addirittura, evapora. Evapora. Ascolta, mo te la faccio io la polemica su Roma Juve. Allora dimmi. Io devo, perché sta Emma Winter, vorrebbe vedere Totti un altro campionato. Aspetta, Emma Winter è la moglie di Agnelli, Emma Agnelli, perché, diciamo. Allora sai dove la vorrei vedere io a lei? Dove? La vorrei vedere rinchiusa col marito dentro una stanza con 10 cassette gradi, anzi no, meglio con 5 non reintegrati. Con 5, scusa, non? con quelli che non hanno reintegrato, quelli iscritti alla FIOM che non l'hanno integrati, capito? E poi vorrei vedere a che campionato iscrivono a lei, capito? Da Emma Winter, fanno diretta Emma Summer, capito? Cioè, in che senso? Allora, specifichiamo meglio, Walter, io voglio riportare, come dire, una specie di ragionamento quello che stai dicendo. Tu dici... Ragionamento, sì. Se, vabbè, allora, siccome tu dici... Sta zitto, per favore, far per favore, zitto, Tadone oggi, eh? Stava a parlare di cose serie, far favore, hai lei. Finito il metadone. Qui hai finito il metadone. Sì, a casa tutto bene? Patrignano, amico mio. Tutto bene a casa? Tutto bene, amico mio? Tutto bene? Dovevi chiamare San Patrignano, no? Dai, Lucio, Luciani, parliamo io. Vabbè, però rispondi a Parenzo, no? Rispondi. Ma non ho capito quanto che detto, perché sta chiacchierando. Ma io manco bene, sta zitta, Parenzo, dai, questa mano. Ma devi da dimostrare, in base a quello che dici mi pare il contrario. Però ma stai tranquillo, ma ci vuoi andare pure te in qua stanza. Calcola che là può sta sgomità, perché lui ce vuole andare in tutti i modi, eh. E poi mettiamo da parte lui, facciamo entrare te, se vuoi andarci. Comunque, ascolta, caro Cruciani. Io non ho capito, secondo te la moglie di Agnelli, la signora Emma Winter, non deve criticare Totti, non deve dire che deve giocare in un altro campionato, ma la sua giusta punizione quale sarebbe? No, io sono per la libertà di espressione. Lei vuole vedere Totti in un altro campionato e io voglio vedere lei dentro una stanza con 5, anzi 10 casse integrati di Pomigliano d'Arco, o se no 5 iscritti alla FIOM con la tesserina in tasca, belli incazzati perché non li hanno reintegrati, che hanno subito del mobbing. E poi voglio vedere lei dove la iscrivono, in quale campionato, se il campionato al 90 o qualche altro tipo. Vabbè, di campionato. Vabbè, dai, adesso Walter, comunque, magari non è che i cassi integrati della Fiat sono per forza incazzati come delle bestie, come dici tu. Cioè non è che picchierebbero, magari non hanno nessun... Sono contentissimo, a parte che io, vabbè, io tutti i diritti toglierei tutto quanto, perché a me io non c'ho nessun diritto, mi faccio il culo dalla mattina alla sera, a me non c'ho nessun diritto, se mi faccio male io c'ho 10 euro al giorno, c'ho, capito che ti voglio dire? Vabbè, comunque senti, parliamo di cose serie qua, perché io ho chiamato per una cosa seria. Allora, innanzitutto un penultimo messaggio a Marotta, la prossima volta, a partita mettete il profilo davanti alla televisione, almeno queste caviti, e vabbè. E poi la cosa è top, Luciano. Qual è il top? Scusa, qual è il top? Allora, ma quale maglietta di Radio 24? Cioè, ma io voglio la maglietta dei Razzi, la sto aspettando, cioè la maglietta Radio 24, ma che ci devo fare con la maglietta Radio 24? Voglio la maglietta so? Dei Razzi. E vabbè, vedremo se cosa si può fare. Vabbè, ciao Walter, ciao. Provincia di Foggia, dai Angelo, vai! Angelo, vai! Sì. Allora, niente, il concetto che volevo esporre è questo. Prima di tutto sono di Troia in provincia di Foggia, non di Foggia. Vabbè, uguale, allora, dai, su, provincia di Foggia, ho detto. Sì. Angelo, dai, non farò spiritoso. Con allora, che come si chiama il paese? Troia? Troia, sì. Troia, sì, bene. Oh, il concetto è questo. Ho sentito parlare ultimamente di diritti delle coppie omosessuali ad adottare. Abbiamo chiesto al bambino se vuole essere adottato da una coppia di omosessuali, visto che in natura non può concepire un bambino una coppia omosessuale. Questo è il concetto, semplicemente. Il diritto del bambino dove sta? Vabbè, ho capito, sei contrario alle adozioni gay, c'è tutto sto giro per dire che sei contrario alle adozioni gay. Certo. Vabbè, ho capito. Ciao Angelo, ciao. Ciao Angelo, ciao. Way you do it, you play the guitar on MTV, that ain't working, that's the way you do it, money for nothing and your chicks for free, now that ain't working, that's the way you do it, let me tell you, damn guys ain't dumb. Secondo voi cosa deve succedere a uno che si esprime in questo modo? Luca Casciani, sentite. Che differenza c'è fra le scimmie di Tarzan che attaccavano i villaggi di colonie, e queste scimmie che attaccano un autobus dell'ATAC. Cesena, Dennis, dica. Buonasera Cruciani. Dimmi. Ti volevo dire, ma come si fa che tutte le sere si fa due palle piene, dare dei bambini, quelle omosessuali, che Dio buono che si inculano per strada? Ma come si fa? No, però scusami, oggi noi non è che vogliamo parlare sempre di Froci, caro Dennis, però sì, è successa una cosa molto semplice, cioè che il ministro degli interni ha bloccato i matrimoni. E vabbè, secondo lei ha fatto bene, secondo me ha fatto male. Cosa vuole che le dica? Cioè... No, ma volevo dire, ma i bambini non sono bambole. Io non c'ho niente contro, non mi interessa. Sono beh, no, che lei non abbia niente contro quelli che lei chiama froci o ricchioni, eccetera. Questo, insomma, non mi pare proprio così, Dennis? Cioè. Sì, però... Cioè, lei li considera degli animali, lei li considera delle bestie, lei li considera delle persone contro natura, dai, contro natura, Dennis, dai, su. No, no, non è così, però voglio dire, io li vedo, perché dai, faccio camionista, no? Io faccio camionista. Che succede sui camion? Ancora con sta storia dei camionisti? Sempre quella che ti ha raccontato, esattamente quella, non si può, i bambini... Beh, ma che c'entra? Sono, che c'entra? Non, i bambini non sono bambole a contentare i ricchioni, a contentare la gente, bisogna chiedere loro, come ti ha detto quello di Bassa Italia prima. Ah, di Bassa Italia prima, capito Parenzo? No, ho capito. Non sono bambole per accontentare i ricchioni, dice Dennis, che è fantastico. Sono bambole. Che è un'espressione fantastica, se ci pensi. No, non sono bambole per accontentare i ricchioni, i bambini. I bambini. Sono fantastiche. Mi scusi, Cruciale, la tua figlia, come le pensi tu, la tua figlia, avere in mano una coppia omosessuale? Dimmi la verità. No, però scusami, Dennis, il problema è molto semplice. Mia figlia l'ho fatta io insieme a mia moglie, diversa, ma che c'entra? Cioè, cosa c'entra? Cioè, non è che adesso la devo immaginare insieme a due omosessuali, non la immagino insieme a... Che c'entra? È una cosa immaginabile, io e mia figlia non immaginerei mai e mai in mano a una... Ma no, ma perché la dovresti immaginare in mano a due omosessuali? Come se uno dice, la metto in mano a due omosessuali, no, non è così, cioè non è che la metti in mano. Cioè, ma quei poveri bambini che sono stati sfortunati, se non c'hanno una padre, una madre, perché le dobbiamo dare in mano a questi qua? Perché sarebbero sono ancora più sfortunati se capitano in mano a due froci? Ma guarda, non dico più, perché più non si può dire, perché anche lì sta il male di sicuro. Però quasi uguale. Dalla tempesta, dalla grandine all'acqua al grandine. Dall'acqua alla grandine. Però devo dire che Dennis, di che nazionalità sei tu, Dennis? Io sono albanese. Albanese, beh, però usa anche delle metafore, no? Delle metafore piuttosto complesse. Ciao amico mio, ciao. Saluto, ciao. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Diciassettesima fumata nera per i giudici della Consulta. Napolitano, sono triste e amareggiato. Inascoltati gli appelli. Brunetta chiede la verifica dei titoli di Violante. Domani il voto di fiducia sul Job Act. Il presidente del Consiglio Renzi escludo, agguati dal PD. Bersani è una forzatura, ma noi saremo leali e responsabili. Sindacati ancora divisi dopo l'incontro con il governo sulla riforma del lavoro. Aperture di CISL e UIL. La CGIL ribadisce il no e conferma la manifestazione del 25. Renzi ha il nostro sostegno sulla nuova normativa per il lavoro, dice il governo tedesco. E sulla crescita nessun conflitto con Roma. Domani a Milano vertice sull'occupazione. Il ministro dell'Interno dice no alle registrazioni delle unioni gay celebrate all'estero, ma da Bologna a Napoli a Milano si alza il coro dei sindaci, noi disobbediamo. Avanzano nell'area industriale di Kobane le milizie del califfato, il premier turco Erdogan, la città sta cadendo, serve un intervento delle forze di terra. L'UEFA squalifica per 6 mesi il presidente della Federcalcio Tavecchio per le frasi razziste contro i giocatori mangia banane e lui no comment rispetto alla sentenza. Ieri sera a Tiki Taka, Mughini contro Mario Giordano, direttore del TG4, torinista e anti-juventino di ferro. Di che cosa stiamo parlando? Dei centimetri di o dei bonifici? Ma non mi fare piangere, sii buono, ma non mi fare piangere. La Juve è favorita, ma non mi fare piangere. E questo lo devi ammettere. Ma queste squallidità, dille al tuo portiere. Che i favoriscono la Juve, di questo ma che parlando. Cosa squallida, di questo stiamo Dio parlando. Matteo da Milano, Matteo. Matteo? Ciao, mi senti? Dimmi. Allora, ma io volevo fare un commento a proposito di quel radiocronista che a Roma ha definito scimmie che saltano su. No, ma lascia perdere le scimmie. Non c'è differenza tra le scimmie di Tarzan e chi attacca gli autobus dell'ATAC. Naturalmente non è che stiamo dicendo che va bene attaccare gli autobus dell'ATAC, ma le violenze nei confronti degli autisti in tutta Italia non è che li commettono solo gli immigrati, sono fior di italiani che rompono i coglioni sugli autobus, che aggrediscono di notte gli autisti, eccetera. Non diciamo stronzate, dai. È vero, sono d'accordo. Aspetta, fermi tutti. È con noi Luciano Moggi. Ciao Luciano, buonasera. Buonasera. Come stai? Tutto bene. Senti, sento con la voce un po' Moggia, non Moggi, no, Moggia. Senti con la voce buona. È il vero Moggi, ragazzi, questo qua, prima al telefono mi ha detto: la dovete smettere di fare imitazioni con la mia voce. No, ho detto che ora il gioco è bello quando fa poco. Vabbè, ma tanto non ci sei solo tu che ci vuole fare smettere di fare le imitazioni. No, io ma mica voglio far smettere, però. Magari qualcuno deve sa far meglio. No, tu sei. No, Andro con te è eccezionale. Andro Mercuri, il nostro imitatore, fa. È vero, in maniera precisissima. È vero, tanto è vero che ha fregato un paio di persone. Esatto. Da vecchio Taormina si sono cascati proprio con tutte le scarpe. Senti, a proposito, voglio partire con te, Luciano, dall'ultima cosa che è successa, cioè la squalifica. Poi parliamo della vicenda della Roma, di Totti, di quello che ha detto, anche Travaglio su di te. Però l'ultima cosa, prima della pubblicità, è questa: è stato squalificato dall'UEFA per 6 mesi. Io ho definito questa sentenza ridicola, non perché è ovvio che è stata una battuta fuori posto. Tu che ne pensi di questa sentenza dell'UEFA nei confronti di Tavecchio? Io credo che per una battuta prendere 6 mesi, e poi era una battuta, credo, intesa a dire si portano ragazzini giovani, è diversa la cosa, però. Questo il mondo dello sport è questo qui, ci sono delle regole ben precise, sono state applicate. Ho sentito che Tavecchio ha detto sì, che rispetta la sentenza, rispetta le sentenze, neppure però è esagerata, non era giusto magari rispettare le sentenze di Calciopoli, però ma secondo te è una cosa esagerata, c'è stata una vendetta nei suoi confronti, cioè per una battuta così? No, ma io penso che non c'è stata vendetta, anche perché in effetti Tavecchio con questi 6 mesi deve non stare praticamente a tutto quello che farà l'UEFA, cioè può rimanere tranquillamente. Secondo me è una squalifica, per modo di dire, anche perché in Italia può governare, l'UEFA praticamente non può andare al congresso. Ci manderà il vice, è una roba finta, sì, dici vabbè, tu. Ma comunque niente di particolare. Niente di particolarmente grave. Senti, Lucianone. Parenzo, no, salutalo, omaggio a Lucianone. No, voglio dire ciao Lucianone, amico mio. Voglio dire Lucianone, con tutto rispetto per le autorità politiche, civili, militari, hai detto una cazzata, amico mio. Perché ha detto una cazzata? Ha detto perché una cosa. Il mondo perché? Del calcio non è che è fuori da qualsiasi contesto. Ma ha fatto una battuta, Parenzo, ha fatto una battuta. Ma non è una battuta, Lucia, non è mia. Ho citato prima il signor Cruciani che nel suo cinismo infinito ormai, anche se uno gli fa la popò a casa, dice: oh, che bello, meraviglioso, l'hai fatta sul tappeto, bellissimo gesto artistico. Nei paesi civili, se un giovane del Milan, come ti ho detto, come ho detto in apertura di trasmissione, dà del negro di merda a un non ha dato del negro di merda a nessuno, Tavecchio. Ha fatto una battuta sui mangia banane, dai, su. Io sono d'accordo, ho detto che le sentenze si rispettano, punto. Sì, però hai detto anche che è esagerata la sentenza, o no? No, la squalifica, non lo dici. Non è esagerata perché sostanzialmente non coinvolge l'Italia, per cui Tavecchio se ne può stare tranquillamente in Italia. Se ne può infischiare. Io intendevo questo, no? Intendevo altre cose. Senti, ma è ancora amico tuo Tavecchio, o no? Ma è un conoscente, uno che praticamente è stato nella federazione tantissimi anni, quindi non posso non conoscerlo. Amicizia può essere un'altra cosa. No, vabbè, certo, un conoscente, però è uno che tipo, tu a un certo punto volevi che ti aiutasse per la questione della radiazione, o no? Mai chiesto nulla, non ho mai chiesto, diciamolo. Non c'è nessuno, c'è la Corte Europea che... Diciamolo, tu non hai mai chiesto a Tavecchio un aiuto per cancellare la radiazione? No, assolutamente no, perché forse anche lui, quello che era vicepresidente, per cui... Non vedo perché debba chiedere aiuti. Adesso si va avanti con i processi, c'è la Corte Europea. Sì, allora un attimo solo, abbiamo la pubblicità, Luciano, poi ti richiamiamo perché dobbiamo parlare di tutto quello che è successo in questi giorni, cioè la Roma, quello che ha detto Travaglio su di te, ha detto dai tempi di Moggi non vedevo ruberie simili, il condirettore del Fatto Quotidiano. Ma Cruciani è un malato che si deve far curare perché per lui va tutto in vasca. Eccoci qui, Luciano. Luciano, ci sei? Eccomi. Come stai, Luciano? Tutto bene? Tutto bene. È da tanto tempo che non ti sento. Ma tu sei sempre in forma, sei uno in gamba. E poi è ora di dirle queste cose. Tu sei uno che imperversi sempre. E c'è poco da dire. È vero. Sei in gabba. Poi mi è piaciuto particolarmente perché, ad esempio, ultimamente ti sento in grande forma quando fai interviste, fai queste cose. E poi si va sempre a finire sulle stesse cose, sulla Juventus, su questi arbitraggi. Ma tu te la cavi bene. Stai bene, Luciano? Io sto benissimo. E allora cosa vuoi di più dalla vita? Me la cavo bene, sai perché? E perché? Dimmelo. Perché adesso non ci sono nel calcio e succede sempre le stesse cose, quindi... Ma tu sei una persona, Luciano, tu sei una persona spiritosa. No, allora... io non sono spiritoso, purtroppo le cose stanno come dico io, è sempre successo e sta succedendo ancora. E io non ci sono... L'incontro tra i due Moggi, Andro Mercù, grande imitatore di Luciano Moggi, e il vero Luciano Moggi alla Zazzà. È vero, stasera l'ha fatto meglio. Perché stasera l'ha fatto meglio? Ma guarda, ma questo è il mio imitatore, sei bravissimo, Andro. Ti faccio i miei complimenti, sei veramente una bomba. E mi è piaciuto perché quando c'era Baudo mi hai difeso alla grande. Ti voglio bene. Mi è piaciuto, bravo. E non so se hai letto, Andro, non so se hai letto, ma io sul Libero avevo pure scritto un articolo. Ho detto che sei bravo perché nessuno mi ha difeso così bene come mi hai difeso tu, è vero? È vero. bravo Andro, chi è il vero? Voglio il vero adesso, gli devo fare 2-3 domande. Ecco il vero. Allora, Travaglio ha detto, il condirettore del Fatto Quotidiano ha detto che aspetta che lui non mi vergognavo così dai tempi di Moggi, i suoi allievi hanno superato il maestro, è stata una ruberia continua, riferendosi alla partita Roma-Juventus. Allora, cosa vuoi dire a Travaglio? Innanzitutto, è juventino o no Travaglio? Perché non si è capito. No, Juventus da juventino. No, ma il problema non è questo. Io vorrei dire solo una cosa a Travaglio. Che vuoi dire a Travaglio? Vorrei dire che prendeste le motivazioni del processo sportivo. Sì. e poi quelle del processo ordinario, addirittura l'appello del processo ordinario, sì, dove le società che praticamente hanno richiesto dei soldi, c'è scritto nelle motivazioni che non hanno diritto a niente perché il campionato era regolare e non è... Vabbè, non questo è l'hai già scritto, ma al di là di questo, secondo te... Capito, al di là di questo, come fa questo qui a dire ruberia? Ruberà lui, non io. Ma secondo te come si deve... Come si deve permettere? Porti le motivazioni, si metta davanti a uno specchio, legga le motivazioni e non dica più queste cose. Quello è, quel, è questo che deve fare, che deve fare un giornalista davanti, serio. Ma davanti allo specchio che deve fare, Travaglio? Si deve guardare allo specchio. E si deve vergognare? Ma questo dipende da lui. Che ne so, questo... Io comunque lui praticamente deve sapere che con un processo farsa come quello... Sono andate in miseria tantissime famiglie che non avevano colpe. Per esempio? Come nella vita ci sono i boomerang, vedi, c'è il boomerang per tutti quanti, anche i politici che vengono. Ultimamente, per esempio, il sindaco di Napoli, vedi, ha preso un anno e rotti mesi per abuso d'ufficio. Adesso il 31 di ottobre il PM di quel processo Narducci sarà a processo a Roma. Tu dici che tutto per aver praticamente tolto dal faldone il filmato del sorteggio e averlo cambiato con fotografie messe come che intendevano. Tu dici che le accuse di Travaglio li si ritorceranno contro? No, io non voglio che si ritorcano contro nessuno, dico soltanto che bisogna stare attenti perché offendere le persone un po' che ci si sta e poi no. Perché, cioè ti ha dato del ladro, dice, ti ha dato del ladro praticamente. Quando lui dice rubare vorrebbe significare che nel processo c'è scritto ci sono partite alterate e invece nel processo c'è scritto nessuna partita alterata, ma non solo in quello ordinario, anche in quello sportivo. Ti ha dato del ladro, cioè sostanzialmente ti ha dato del ladro. Appunto, quindi vorrei sapere... Ma lui è della Juve o no? È della Juve o no? Ecco, lui mi dovrebbe... Io da oggi poi non lo rispondo più perché credo che non meriti neppure più la pena, tanto le litanie sue le legge più nessuno. Dovrebbe dire invece le partite dove abbiamo rubato in relazione praticamente a quello che ha scritto il processo. mi dica le partite in cui abbiamo rubato, questo gli dice. Allora a quel punto lì gli rispondo perché altrimenti non rispondo più. Ma secondo te deve stare attento a quello che è scritto nel processo però. Ma secondo te è veramente della Juventus o no, Travaglio? Ma che te Juventino. Lui dice di aver smesso. Ci sono tanti pseudo juventini che praticamente dicono: no, io. Questi qui sono quelli che praticamente sono sempre stati contro la Juve e che sostanzialmente trovano sempre da ridire qualcosa. E in questo caso Travaglio dice cose false perché il processo non recita. Lui dice di aver smesso di tifare Juventus per colpa tua, Luciano. No, lui non ha tifato mai Juventus, evidentemente, perché per colpa mia i tifosi stavano allo stadio e purtroppo per colpa di altri non ci siamo più noi nel calcio e l'ha reso evidente il processo quando dice non ci sono partite ma uno potrebbe rispondere tu hai avuto una condanna non definitiva io ho avuto una condanna, lui c'ha 10.000 querele ferme a Lussi. Lasciamo perdere. Renzo, che stavi dicendo? Il fatto che io non ho avuto una condanna a parte il fatto che io non ho avuto una condanna perché le condanne si fanno al terzo grado. No, ma io ho detto non definitivo, ho detto ah, non ecco, ho detto si aggiunto... fanno al terzo grado, quindi la condanna io l'ho avuta e vediamo se l'avrò. Io penso di no. Invece lui è pieno di cosa? Tu dici lui è stato condannato, dice per diffamazione, queste cose qua. Che lui ha avuto mille cose, tutte ferme da una parte, evidentemente. Parenzo, che stavi dicendo? I santi in paradiso, no, dici, in attesa che si presenti. Cioè, secondo te ai santi in paradiso, i magistrati che lo appoggiano, secondo te? No, ma guarda che queste qui sono cose che sono all'USI, all'Unione Sportiva, all'Unione dei Giornalisti. Cosa? Però a me queste sono cose che interessano poco. Vabbè, Parenzo, che volevi dire? Quando parla delle cose parla di Moggi deve dire quali sono secondo lui le cose che non sono andate. Dopodiché si deve sciacquare la bocca, la bocca quando parla di te. Anche e dopodiché si confronta con le motivazioni del processo se ha coraggio. Parenzo, che volevi dire a Moggi? Poi dire che in attesa dell'arrivo del partito Forza Moggi alle prossime elezioni. Ma non lo fa più ormai. Scherzi, ma se partecipassi io vincerei alla grande. Vinceresti? Quanti voti ha Moggi in Italia ancora? Quanti voti ha? 10 milioni come minimo. Dici tutti gli juventini ti voterebbero? Molti juventini ti voterebbero, dici Luciano. Molti. Senti, ma Totti, voglio capire su Totti. Quello che ha detto non è inutile giocare il campionato. Come si può rispondere a Totti? Ma senti, io a queste domande non rispondo. Cioè, perché? A queste cose io non rispondo neppure, anche perché non meritano risposta. Beh, non meritano risposta. Uno juventino come te. Significa, cioè... vi posso dire una cosa: quando poi succedono gli incidenti sugli spalti, non andate a dire che gli scalmanati siete, gli scalmanati sono scaldati. Ah, e cioè, vengono scaldati continuamente, perché quando si scrive campionato falsato alla sesta giornata bisogna riflettere attentamente, cioè incita la violenza, altre partite, cioè una cosa del genere incita la violenza, dici tu? No, pensateci voi. Se no, vabbè, quello che hai detto tu, mica l'ho detto io, ma secondo te io sono d'accordo con te su questa cosa qua, per carità, l'ho già detto che va deferito, secondo te va squalificato per le frasi che ha detto? Ma facciano loro, ma tanto io, a me cosa vuoi che a te che te frega, a te che te frega di Totti? Io, ma non mi frega né di Totti. Ma tu a Roma ci puoi andare tranquillamente, io a Roma? Posso dire una cosa, ho visto una partita, Juventus-Roma, una bellissima partita. Sì. Dove praticamente l'arbitro può aver sbagliato, ma se ha sbagliato da una parte o dall'altra. Sì. Perché il rigore di Totti poteva non esserci, quello della Juventus poteva non esserci, eccetera. Secondo me il pareggio era la cosa più logica che potesse essere una nuova partita, dove due grandi, belle squadre hanno dimostrato che in Italia si può giocare anche il calcio. Non c'è dubbio. Sono due soltanto, purtroppo, il resto è tutta roba da poco. No, ma questo è vero. Bisogna godersi di queste cose qui, non andare a cercare. Beh, il terzo gol della Juve potrebbe essere anche irregolare, quello là sul fuorigioco. No, era regolare. Era regolare. Il regolamento UEFA probabilmente non conosce nessuno. No, l'abbiamo letto. Parenzo, che volevi dire in conclusione? No, volevo dire che non è che può dare lui il patentino di chi è tifoso e di chi è tifoso e chi non lo è, perché Travaglio, che è sempre stato un tifoso, e non mi interessa difenderlo nel merito o perché è Travaglio, ma chissà quanti juventini come Travaglio, meno famosi di Travaglio, hanno a un certo punto abbandonato la Juve per le note vicende di Calciopoli. Ma, quindi... ma chi ha abbandonato la Juve? Ma che stai dicendo? Ma chi ha abbandonato la Juve per le vicende di Calciopoli? Pensi... Ma no, quando io la critica la facevo a Moggi sul fatto che lui non è che può dire chi è juventino e chi è no in base al fatto che uno gli dà carezza. Parenzo, fai un referendum o vieni allo stadio a Torino o vieni allo stadio a Torino e ti rendi conto i tifosi della Juventus, ma cosa dici? Cioè stanno con te, non stanno con Travaglio, stanno con te, non con Travaglio, dici. Ti invito io all'Olimpia, con l'Olimpia a Torino, vieni lì e stai con me e ti rendi conto di quello che prendi. Cioè se vedono Travaglio i tifosi della Juve che fanno i tifosi della Juve se vedono Travaglio? Vediamo che succede. Non vi ho domandato, io vi posso dire quando vedono me. Che fanno? Ti portano come il Papa, insomma, praticamente come... Beh, ora non esageriamo, il Papa è una come il vice Papa, dai, il vice Papa. No, assolutamente no. Vabbè, Luciano, ti saluto. Ciao, a presto. Ciao, Luciano. Ciao. Oggi è sparito, richiamatelo, è Paolo da Roma. Paolo da Roma. Allora, vai Paolo. Io volevo parlare quanto riguarda Luca Casciani. Sì. Io secondo me io darei più dei pezzi di merda agli italiani. Sì. Giusto? Sì. Perché offendere gli immigrati è una cosa sbagliata. Come va Parenzo? Adesso non ci parla? Non parla? No, parla, non ti preoccupare, parla. No, Parenzo. No, perché... ha detto che no, questo qua va incriminato, ha detto che questo tizio qua va incriminato. No, adesso che io ho detto dei pezzi di merda agli italiani, Parenzo non sta parlando. Basta, no, ma che c'entra? Gli italiani e gli immigrati no. Guarda, bisogna... Ma io Paolo, io non ho capito il ragionamento, cosa vuoi dire? Scusa, non ho capito bene, cosa vuoi dire? Io voglio dire che signor Parenzo, quando vengono toccati gli immigrati, il signor Parenzo diventerà bestia. Allora... Ma che cosa? Ma viene stipendiato dagli immigrati? Stipendiato? Luca Casciani, che io l'ho ascolto la mattina, Luca Casciani, la miseria, Luca Casciani la mattina offende anche gli italiani, oh? Però voi non avete preso quelle frasi dove Luca Casciani offende gli italiani, avete preso la frase dove offende gli stranieri, gli immigrati. Io non lo so, recupereremo anche quelle altre frasi, non ti preoccupare Paolo, non ti preoccupare. Poi tra l'altro, se per te è una cosa normale, cioè una cosa normale prendere a pietrate. Chi ha detto che è normale? Chi ha detto che è normale? Chi ha detto che è normale? No, ma questa gente qua è abituata a stare nella giungla, devono stare nella giungla, non nella città normale. Eccolo che viene fuori, eccolo che viene fuori Paolo. Forte Parenzo, deve essere insieme a loro nella giungla. Io lo pago il biglietto del treno, basta che te ne va. Scusami, ma oggi non ho capito cos'è la giornata mondiale dell'asino? Non l'ho capito. Oggi è la giornata mondiale del coglione. È la giornata mondiale del coglione. È il tuo compleanno, Parenzo. No, ma scusami Paolo, cosa vuol dire? Io non ho capito bene. Tu hai fatto. Non vuol dire niente, vuol dire che è un asino. Vuol dire che Parenzo, quando toccano gli immigrati, diventa una bestia. Invece agli italiani li possono pure prendere calci nel culo. Ma Parenzo chi l'ha detto? Allora. Ma sei un somaro patentato proprio. Ma devi andare a correre al palio di Asti, di Alba. Palio di Alba devi andare. Guarda, se vuoi. Parenzo, vai al palio di Alba a correre il palio dei somari. Non ti chiamo manco signore, perché manco signore, sì. Ti dico Parenzo, io a te ti posso dare molto, ma molta lezione. E se vuoi, quando ti rincontro di nuovo a Porta Pia, che fai? Ne dico altri ragionamenti. Che fai? Che fai? Non ho capito che cosa fai. No, certo, io parlo con la bocca, non sono come gli amici suoi. Il palio di Asti, mandata a sua morte. Non sono come gli amici suoi. Chi è che sta parlando in sottovoce? Il palio di Asti. È un cenacolo, che è questo cenacolo? Che avete fatto? Una riunione di razzisti lì, che avete fatto? No, non siamo razzisti. Non ti preoccupare. No, Paolo, allora. Guarda, io sono Paolo, scusami, io sono sull'immigrazione clandestina, sono durissimo, forse più duro di te sull'immigrazione clandestina. Molto duro. Però non mi venire a dire che le frasi dette contro gli immigrati che assaltano l'autobus, che ovviamente vanno presi e sbattuti in galera. Però quello che dico io. Tu hai detto che sono delle scimmie. Perché quando gli extracomunitari offendono gli italiani, tutti si stanno zitti e poi gli italiani non possono dire sugli extracomunitari. Ma chi l'ha detto? Io molte volte prendo la metropolitana a Roma, e mi trovo certi deficienti che il signor Parenzo difende, che offendono gli italiani. Che fanno? Che dicono? Ma chi lo dice? Ma chi? Questo è normale, io non lo so. Ma dove abiti? A Corcolle tu? Dove abiti? A Corcolle? No, io abito a Roma Centro, grazie a Dio, non a Corcolle. Ecco, io starei a Corcolle, ma già me ne sono scappato. A Corcolle al massimo ci può andare lei insieme a Parenzo. No, l'appartamento. Guarda, io non c'ha. No, per fortuna non abito a Corcolle, lo dico senza ipocrisia. Meno male. Sì, certo, per fortuna dico, per fortuna. Perché non si fa dire da signor Parenzo che abita a Porta Pia, come hanno ridotto Porta Pia i suoi amici extracomunitari? Faccio descrivere. Perché dici extracomunitari con 3R? Perché? Bene, perché va 3R, in quel circolo lì usano 3R evidentemente, in questo cenacolo di persone col cappuccio bianco. Però ti voglio dire questo e darti una delusione: sono stato nelle periferie, sono stato a Corcolle, ci sono stato, l'ho visto, vedrai il mio servizio nei prossimi giorni a Matrix, ho visto la disperazione degli italiani che la vivono. La disperazione. Dopodiché ti voglio dire una cosa. La disperazione è si vanno a comprare l'iPhone di 900 euro, quello sarebbe la disperazione. Degli italiani, ti ho detto, io ho capito che tu hai un problema. Il mio problema sei qual è? E sei stato escluso anche dal palio dei somari. Vabbè Paolo, ti saluto, ciao, abbiamo capito tutto, ciao. Appunto. Ciao. Buonasera Raffaele. Buonasera Cruciani. Bene, io volevo parlare riguardo sempre di questi ragazzi, di questi violenti, anche nella nostra circondazione. Sì, metti il telefono meglio, sennò sentiamo poco, dai, forza. Purtroppo forse la linea non è. Vai, si capisce, vai. Io dico di chi comanda qua a Napoli, cioè sono proprio le leggi che abbiamo. Ma di che stai parlando, Raffaele? Concretamente di che parli? Parlo di questi giovani che non pagano biglietti, che sono violenti. Ah, l'autista pestato a Napoli, l'autista pestato. Sì, a Napoli, sì. Vabbè, allora? Praticamente ci vogliono leggi diverse come la Russia, perché in Russia praticamente quando succede un fatto del genere li pestano, cioè ci sono dei giovani. Vabbè, lei vorrebbe leggi più dure contro quelli che fanno casino sugli autobus, quelli che magari picchiano, ma le leggi ci sono, il punto è che poi in alcune parti d'Italia vengono applicate meno, ma non è che le violenze contro gli autisti ci sono solamente a Corcolle, a Napoli, in tutta Italia di notte può succedere qualcosa, eh. Pronto, buonasera dottor Cruciani, io l'amo sempre, lei è l'uomo ideale e se fosse una donna io le farei la corte sfilata. Sempre ieri sera da Piazza Pulita, a proposito di italiani, gruppi di italiani che se la prendono con i cosiddetti negri che assaltano gli autobus in un posto alla periferia di Roma che si chiama. Poi riparliamo di quel Casciani, eh. Dei guardi e ti dicono, oh, a noi gli potete pure una bassa che mi fate vedere, te fa capire come siamo messi in istituzioni. Io sono di rumeni. E poi dopo 15 anni cominciamo con i negri, tra poco arrivano i curdi, poi questo è il terzo mondo, mica non stanno loro. Io non sono un razzista, per me possono stare là. Comunque c'hai il ritratto di Hitler ben in ma vista. Il problema qual è? Non rinnega il tatuaggio. No, non rinnego niente. E anche questa scritta qua, meglio morire in piedi che vivere una vita, certo, in ginocchio. Qui c'è il centurione, sì. Qui c'è sta il fascio, la croce celtica, molti nemici, molto onore. Ho scritto Mussolini. Sì. Il problema qual è secondo lei? Sfoggiare queste cose qui, in un momento in cui voi siete accusati di razzismo. Ma che cazzo mi frega a me? Io rispetto tutti e voglio essere rispettato. Sono pezzi di merda. C'è una persona così, va rompe il cazzo. A chi non lo deve rompere, a una ragazzina che passa, io lo ammazzo e non sono razzista. Uno ti fa giustizia da solo? Dimmi, e perché chi la fa? Tu, scusa, dimmi come si fa giustizia. Più o meno questo tizio simile a quello che ha chiamato prima, eh? Non molto diverso, caro Parenzo. Allora, no, questo Luca. Poi, la cosa agghiacciante è che questo qui poi si spoglia completamente del servizio, con tutto il torace, e ti fa vedere in tutto il corpo tutto quello che avete sentito. Ma sentite un conto, visto, cioè vedere questo omone che addirittura si spoglia davanti alla telecamera e con orgoglio fa vedere Hitler, Mussolini, le frasi oscene pronunciate nel ventennio, tutto così davanti alla telecamera, come fosse normale. Questo è agghiacciante. E vabbè, agghiacciante, che dobbiamo fare? Che deve essere arrestato questo qua? Che deve essere? Siccome me lo chiedi come il suo. Che deve essere modo... arrestare? Lo vogliamo arrestare questo qua? Andrebbe arrestato? Ma il fatto cioè che uno non si può fare il tatuaggio, non si può fare il tatuaggio, è un cretino, ma non si può fare il tatuaggio con Hitler, è proibito? Valì, lo vogliamo proibire? Lo mostra e vabbè, è un cretino, un imbecille, benissimo. Ma che vogliamo fare? Lo vogliamo arrestare questo qua? Assolutamente sì. Bravo, applausi a Parenzo. Arrestiamo tutti, anche uno che ha il tatuaggio di Hitler sulla spalla. Ma non è solo il carceri tatuaggio. Piene, carceri piene. È bello che poi è uno di quelli che dice che bisognerebbe ridurre, no, la popolazione carceraria. In carcere pure questo qua. In carcere uno che fa il tatuaggio, che è un cretino, perché uno che si fa il tatuaggio di Hitler è un imbecille. Ma non è che fa solo il tatuaggio. Uno sul proprio corpo può fare quello che gli pare, ovviamente. E vabbè, dice delle frasi estreme, è un pazzo, è un pazzo che dice delle frasi estreme. Ma vanno condannati gli atti la maggior parte delle volte. Gli atti, non le parole. La maggior parte delle volte. In alcuni casi anche le parole. Ah, meno male. In alcuni casi, è evidente, in alcuni casi. quando non ho ancora capito in quali casi. Beh, per esempio, se questo qua dicesse gli ebrei vanno messi nei forni, nei forni. No, in quel caso tu se dice. Ma è sostenuto il contrario, purtroppo. No, attenzione, se uno dice gli ebrei vanno messi nei forni, deve intervenire la forza pubblica. C'è il mio se uno dice. Hai sempre detto il contrario. No, su questo ti sbagli. Su questo ti sbagli. Hai sempre detto il contrario. No, se uno dice gli ebrei vanno messi oggi nei forni, se uno dice gli ebrei vanno messi oggi nei forni, c'è un'enorme differenza. Diciamo con le parole, che differenza c'è col dire il negro di quello mezzo, è un progetto politico, cioè è un progetto, diciamo. Che differenza c'è con questo che dice i negri di merda vi voglio sprangare tutti? Vi voglio sprangare tutti è un altro discorso. Vi voglio sprangare tutti, bisogna vedere. Io becco e gli sparo. Che differenza c'è? No, ma io ho detto semplicemente, io parlavo del tatuaggio. Io parlo della persona, di quello che ha detto e di quello che ha mostrato in pubblico e di quello che ha detto e che ha rivendicato. Tre cose ti ho detto: quello che ha detto, quello che ha rivendicato e quel progetto politico che ha. Comunque sentiamo sto Casciani. Se ti permetti di distruggere un mezzo che fa parte della collettività, la stessa collettività che ti mantiene, brutta sanguisuga schifosa, e qualcuno ti ammazza, io dico che ha fatto bene. Adesso questo Casciani parlerà anche contro gli italiani, come ci hanno detto, però non puoi mettere sullo stesso piano uno che distrugge un autobus e un altro che ti ammazza. Cioè non è che se uno distrugge un autobus va ammazzato, caro amico mio di RTR 99, come diavolo è? Non è possibile, non è la stessa cosa. Non puoi inneggiare all'uccisione di un nero, di un negro, di un marocchino, di un senegalese, non so che cosa, semplicemente perché ha sfasciato un autobus. Uno che sfascia un autobus va preso e va messo in galera per un po' di tempo, un tempo limitato, ma comunque va messo in galera. Non deve essere ammazzato. E gli va fatto ripagare l'autobus anche, magari? Assolutamente. Poi non puoi dire speravo più morti nel canale di Sicilia. Guarda, gli farei primo nell'ordine ripagare l'autobus per intero, bellissimo, nuovo, il più costoso che c'è. Ma questi c'hanno una lira, ma che gli vuoi far ripagare? Non c'hanno un euro, ma che stai a parlare? Ma pignori la casa, ma non c'hanno la casa. Insomma, ma che dici, gli faresti ripagare l'autobus se non c'hanno un euro? Dai, completamente. Allora, se è irregolare, questo va preso e riportato a casa. Questa è la cosa fondamentale. Se è irregolare, va preso e va portato a casa. Questo. Se invece hai il permesso di soggiorno, lo dobbiamo tenere qui e andrà in galera in Italia. Alessandro Milano, anzi no, c'è un'altra frase di questo Casciani, 200 morti nel canale Sicilia. Tu ti permetti di aggredire una persona che sta svolgendo il proprio lavoro? Sono questi i comportamenti che ci portano a pensare quanti ne sono morti? 200 nel canale Sicilia? Ah, beh, insomma, speravo di più. Alessandro Milano, vai. Buonasera. Dimmi. Io sono un povero Cristo che non conta un cazzo e volevo togliermi solo una piccola soddisfazione. Volevo solo mandare a fanculo Moggi e tutti i suoi amici. E perché dovresti mandare a fanculo? Mi sono rotto i coglioni di trovare in televisione, nei telegiornali, alla radio, questi personaggi che si prendono condanne su condanne, sì, fanno il giro dell'isolato, vanno in lavatrice a 60 gradi e poi tornano fuori e ribaltano tutta la realtà. A parte che noi siamo abituati a ospitare persone che hanno avuto condanne, non me ne frega nulla. Ma più, infatti, quando ci sono queste persone io cambio. Ma a parte che le condanne non sono definitive per Moggi, primo. Certo, quelle sportive sì, quelle diciamo civili, se vogliamo chiamarle così, o penali, no. Dunque, di che stiamo parlando? Alessandro, lei fa schifo Moggi. Va bene, registriamo questa cosa, lei fa schifo Moggi. Vabbè, io ti volevo dire questo, e poi volevo dire che è davvero irritante vedere queste persone che ribaltano la realtà. Poi scusi, che cosa c'è di interessante nel chiedere a Moggi opinioni? Cioè, non so. Per noi è interessante sapere uno che è stato nel calcio tanti anni, che è, come dire, considerato un dio dai tifosi della Juventus, che ha detto, su cui sono state dette certe cose negli ultimi giorni da parte di Marco Travaglio, e noi l'abbiamo fatto rispondere su queste cose qua. Ma è normale. Ma non è che lo devo spiegare a lei. Da un punto di vista giornalistico, forse sarebbe più interessante fare una statistica. Quello che è più interessante, o quello che non è interessante. per fortuna ho ancora la possibilità di deciderlo, ha capito? Ma certo, ma io lei poi mi può dire, lei mi se può non dire che restava, non dovevate passare no, la chiamata. No, ma per carità. Io semplicemente l'opinione da telespettatore. Va bene, a parte che non siamo alla televisione, ma siamo alla radio. Che si sono fatti il giro dell'isolato, si sono fatti. Vabbè, ma questa è la sua opinione su Moggi, fuori, ribaltano la realtà. Ma ribaltano la realtà, bellissimo. A me sinceramente questa cosa non piace e tutto lì. Bene, grazie. Grazie. Andrea, salve. Provincia di Monza. Pronto? Ancora esiste la provincia di Monza, vi rendete conto? Sì, non, ancora, non è mica colpa tua, no. Non è colpa tua. Sono sempre lì e rimarranno sempre. Addio, vai. Senti, io volevo dire una cosa molto semplice, perché qui siamo in un grande equivoco. Parenzo è un equivoco, la sintesi del pensiero di Parenzo è il discorso dell'autobus che deve essere ripagato nuovo, il più bello di tutti. Questa è la sintesi del pensiero di Parenzo, il nulla più totale. In realtà c'è un equivoco, l'equivoco è che non siamo uguali, non siamo uguali. In che senso? 2000 anni fa i romani avevano capito come trasportare l'acqua, hanno fatto l'acquedotto. Questi nel 2014 fanno ancora i chilometri per andare nella giungla a raccogliere l'acqua e se la portano in giro nel loro villaggio. Non ho capito bene, questi chi? Questi tutti questi extracomunitari che arrivano dall'Africa. Sì, cioè mentre noi, lei dice, siamo un paese progredito, eccetera, eccetera, questi ancora stanno ai tempi della pietra, questo vuole dire lei? Sto dicendo questo, noi nel 2010 abbiamo visto il mondiale in Sudafrica, questi erano dei tubi di plastica, no, non hanno capito che facendo quattro buchi potevano fare dei suoni più melodiosi, sono ancora di quei fondi. Ma lei non capisce una mazza, cioè lei non capisce una mazza. Ma nel 1500 Leonardo da Vinci disegnava. E allora? E allora? Non c'è Leonardo da Vinci che arriva dall'Africa. Non c'è. Vabbè, mettiamo che sia così, che noi abbiamo una civiltà molto più evoluta, eccetera, eccetera. Mettiamo che sia così, sono anche d'accordo su questa siamo cosa semplicemente qua. Semplicemente diversi. E allora? Allora? La conseguenza qual è? Ognuno può stare a casa sua. Cioè, secondo lei in Italia non ci devono essere negri? Secondo me ognuno deve stare a casa appunto, sua. Appunto, secondo lei, okay. lei sogna una società, un'Italia dove non ci siano negri? Io mi auguro per loro che trovino anche loro un vabbè, ma perché? Ma che mica è un politico, lei, ma parli chiaramente, mica fa politica lei, almeno non mi sembra. Cioè parli chiaramente, lei vuole una società tutta bianca, un'Italia bianca, o no? Io sto dicendo semplicemente. Mica il coraggio di dirlo, Parenzo. Diversi. Okay. Vabbè, lei ha detto che sono Parenzo, ognuno a casa loro. Dunque, la conseguenza è quelli che ci sono già qui, che fanno allora? Quelli che lavorano qui, che devono fare? 1200 noi avremo Ostiolino. Ridaglie con sto 1200, l'ho capito. Giocano solo lì che giocano con la sabbia. Non capisco, mettendo quattro pezzi di legno insieme si poteva fare una sedia, un tavolo. Che devono fare quelli? Nella paglia, non hanno ancora capito come si fanno i letti. Che devono fare? Che devono fare quelli che stanno già qua? Sono venuti qui, hanno capito come gira, come funziona il mondo, allora? Hanno capito come funziona il posto, sono a casa loro a dare un aiuto e a cercare di migliorare il loro cioè, paese. Cioè, devono andare tutti via, secondo lei? Devono tornare nel loro paese ad aiutare. Tutti. Ad aiutare tutti. Il loro paese. Cioè, lei prenderebbe ogni negro che c'è in Italia e lo rispedirebbe a casa sua. Lo inviterei a tornare ad aiutare il suo popolo. Vabbè, ma se lasci perdere aiutare o no il suo popolo, uno può decidere se aiutare o no, ma sono affari suoi, vuole pure decidere cosa devono fare questi. Lei vuole pure decidere, oltre alla follia di mandarli via, lei vuole anche decidere quello che devono fare nei loro paesi. Sì, benissimo. Quando Gurugungo arriva qua e tira il sassi all'autobus, Gurugungo sì. Deve capire che deve tornare a casa sua e aiutare il suo popolo a capire che cosa deve fare per cercare di risollevarsi. Va bene? Ho capito, Parenzo, commento finale di 5 secondi, ti prego, 5 secondi, ti prego, 5 secondi. Mi auguro che prima o poi qualcuno, anche questo signore, emigri da qualche altra parte. Non abbiamo bisogno di gente così qui, non c'è bisogno di gente così. Ma che vuol dire non c'è bisogno? Dove deve andare? Questo vuole stare in Italia, vuole stare. Andrea, lei vuole andare all'estero? Perché rimangono sempre i peggiori? Se io vado all'estero e faccio un'esperienza positiva e vedo qualcosa di nuovo, torno nel mio paese e cerco di importarlo. Ma io le pago il biglietto, perché meno la vedo meglio sto. Ma vada. Come l'autobus, paghiamo tutto, paghi anche il biglietto, come l'autobus, dai. Ciao. Più moderno di tutti. Ciao. Non la tratteniamo. Tu ti devi fare le punture di risanamento del cervello. Vediamo se troviamo la Cancellieri, sarà incazzata con la Roma sulla. Pronto? Pronto? Ministro? Pronto, chi parla? È la Zanzara, Cruciani. bene, bene. Buonasera, Luciano. Ma lei è sparita dalla circolazione, ministro? Non si sente più niente? No, non sono mai sparita. Un'intervista. Un'intervista. Vabbè, faccio vita più ritirata. Insomma, non ho le prerogative. Dicevo prima, facendo il ministro della giustizia. Insomma, può capire, mi occupo di altre cose. Più di che si occupa, scusi? Ah, il ristorante. Facciamo cose diverse, ma sempre particolarmente utili. Scusi, ministro Parenzo, è curioso. Sentiamo una voce squillante del ministro Cancellieri, l'ex ministro Cancellieri, ma in realtà sarà contenta per la Roma, immagino. Ma come contenta? Sarà furibonda per la Roma, no? Contenta, perché contenta? Guardi, io si figuri, sono una persona assolutamente tranquilla. Beh, come tranquilla? In galera devo andare, in galera! Ma chi, è ministro? Scandaloso, è assolutamente scandaloso, è orgoglioso, è inammissibile. Senta, con la Juventus è sempre la solita storia. Questi no, rubano, però... questi rubano, rubano. Ma scusi, ha detto che è tranquilla, ma scusi, lei è un ex ministro, è un prefetto, è un funzionario dello Stato e dice che ma è una cosa gravissima, sta dicendo, ministro. Mi scusi tanto, sa che faccio io quest'arbitro? Ad occhi, gli mio orecchie mi rialzo tipo come la Champions. Ecco, questo io posso fare. Però scusi, è inammissibile, è vergognoso. Però scusi, ministro, se lei fosse ancora al dicastero, che cosa avrebbe fatto in queste giornate dopo quello che è successo domenica? Allora, sai che facciamo? Io una commissione d'inchiesta, cosa avrebbe promosso? Facciamo una cosa più un'ispezione. Guardi, ma se mi lascia parlare, Luciano. Sì, scusi, ha ragione. Sì, sì. Guardi, mi perdoni, visto che io ho promosso lo svuota carceri, adesso facciamo la cosa inversa. Quindi la riempiamo, ci mettiamo dentro tutti gli juventini e vedrà che stiamo a busto. Ma no, ministro, è al di là degli scherzi. Ma non sono mica scherzi. Ma c'è Totti ha ragione, allora. Totti ha ragione. Totti ha ragione. E certo, un capitano, c'è solo un capitano. Vabbè, ministro, adesso si mette a cantare. Vabbè, ma lei ha sbroccato completamente. Ma no, ma che sbroccato? Ha visto che il rigore meraviglioso, poi è andato a gioire con il cuore. Vabbè, ma avete perso alla fine, ministro Cancellieri. Senta, innanzitutto un rigore non c'era perché l'area juventina c'ha 40. Ma lei proprio metri. Vede le partite proprio. Ma mi scusi, mi dica quello di Baikon, non fallo di mano in area o fuori area? Vabbè, si può discutere. Insomma. Poi? E poi c'è stato questo Vidal che si è accappato di fronte al portiere avversario e insomma quando di fronte al portiere. Ma De Rossi in panchina? Ha sofferto a vedere De Rossi in panchina lei? Beh, questo sì, è stato veramente, guardi, è stata una cosa molto triste per me. Quando io vedo lo sguardo triste di questo ragazzo col petto villoso, questa barba, questi occhi che raccontano tutto, dolci, sì, è stato veramente. Ma questi juventini cosa vuole dire ai juventini? Se facessero un pochettino andare a sinistra una gambata, perché insomma mica se vanno avanti in questo modo. Ma lei aveva detto che era moderata, adesso sta insultando tutti. No, ma che è insultato? Sto dicendo una cosa, mio papà mi fa male, come è stato? Mi perdoni. Vabbè, Parenzo, dai, che la dobbiamo lasciare. Voglio dire, Cancellieri, lei è un pezzo dello Stato. Io pensavo l'avesse presa con sportività. Esatto. Dice... Ma no, quale sportività? Ha detto in galera. Ho detto speravo, una cosa moderata, mi perdoni, è più moderata. E qual è la cosa moderata? È appunto in galera, è una cosa tranquilla. In galera, ma lei chi vorrebbe in galera poi? Ma ci vediamo tutti, quelli che Rocchi, potere, Rocchi, Rocchi. E beh, Rocchi, guardi. E la moglie di Agnelli? Mamma mia, se quella si tappasse a bocca sarebbe meglio. Si sciacqua a bocca prima di parlare, però. Diciamo le cose come stanno. Si figuri, Luciani. Non ci perdi. Senta, piuttosto, che io adesso sto preparando dei tondarelli cacio e pepe. Ma i tondarelli cacio e pepe, adesso a noi sono le 20:19, dobbiamo ancora finire la trasmissione, ministro. Ma lei ogni volta. Finisca la trasmissione e venga. Ma no, io sono a Milano, Parenzo può venire in teoria, ma sta a casa pure lui, c'ha il figlio. La moglie. Senta Parenzo, viene lei? No, non può venire, credo. No, sono a Roma, ma non posso. Vabbè, ma ragazzi, io vi invito e voi siete sempre lì sulla difensiva. Vabbè, ministro, arrivederci, dai. Arrivederci, buonasera. Com'è la Roma? Com'è l'inno? Roma, Roma, Roma, come resta città. Living easy, living free, season ticket on a one-way ride. Da Radio Padania, che rispetto a quello che abbiamo sentito prima mi sembrano dei moderati al confronto, dei moderati. Comunque, da Radio Padania, sulla Zanzara. Cruciani, Radio Padania ti aspetta alla Zanzara, non solo ti aspetta nel dichiarare il tuo stipendio, visto che prendi soldi nostri, visto che sei dipendente, obbedisci agli ordini del padrone Confindustria che prende 20 miliardi a salire a fondo perduto, quindi una parte del tuo stipendio viene dalle mie tasche, e aspettiamo che tu, il bambino scemo, ci avete detto, ci avete minacciato di mandarci orde, beh, lasciamo stare le bombe, il bambino scemo, se non sbaglio, aveva anche minacciato le bombe, i pacchi bomba. E noi qua, lì stiamo, devo dire che ogni tanto un po' la strizza ti prende, non si sa mai, non si sa mai. Però stiamo aspettando le orde, bambino scemo, Cruciani, le orde di telefonate di migranti a Radio Padania. Pronti? Pronti, buonasera. Buonasera. Io chiamo per difendere Parenzo. Ha sbagliato, comunque le lascio la parola. No, ma io sono un immigrato, no, ma io spero solo che lei mi ascolta, no? Lei difende un bambino scemo che ha detto di mandare pacchi bomba a Radio Padania. Quindi lei vuole mandare pacchi bomba a Radio Padania? Allora, se lei mi faccia una cortesia, che mi lascia... Sì, ma ascolti, mi rispondi. Lei è d'accordo quindi nel mandare pacchi bomba a Radio Padania? No, ma ascolti... E allora come fa a difendere il bambino scemo? Aspetta, allora, lei mi ascolti, no? Allora, io voglio difendere Parenzo, ma non Cruciani. Perché? Allora, perché Cruciani è uno di voi. Cruciani è come voi... Mi sente? Sono in diretta? No, mi scusi amico, se lei, caro amico ascoltatore... No, aspetta. Mi lasci puntualizzare. Lo dico in tono semiserio. Se lei mi dà del Cruciani, uh-huh, io chiaramente, siccome non sono un italiano, non sono di quelli di Querello, eccetera, mi offende profondamente, perché io quelli come Cruciani, come il bambino scemo, mi lasci finire, a me non può parlare solo lei. Deve capire, e glielo dico proprio con la sincerità, quel tipo di persone lì io le detesto da quando sono in prima elementare. Ma se lei mi insulta. Mi paragona allora, a Cruciani. Guarda che paragonarmi a Cruciani per me è un insulto pesante. Mi paragona a uno che si fa montare la fidanzata. Mi paragona a uno che si fa montare la fidanzata ad altri uomini e gli piace guardarla e gli lecca i piedi. Allora, mamma mia. Allora, l'unica cosa che lei è meglio di Cruciani, sai qual è? Almeno lei, le telefonate, le persone che chiamano a parlare con lei, lei non filtra nessuno, lei lascia parlare le persone, questo è un merito suo. Allora vorrei dire a quel poveraccio di Pellegrin, perché di poveracci si tratta, che sono orgogliosissimo di quello che ha detto nei giorni scorsi. E queste cose ridicole, mi paragona uno che si fa montare la fidanzata, che... Ma su questo non ha tutti torti, solo su questo. Ma che vuol dire? Quelli sono gusti personali, non sono giudicabili. Allora, che cazzo dici pure tu? Stai zitto, no, non dire stronzate. Ridi, puoi ridere tranquillamente. Condividere il suo giudizio, diciamo anch'io. Ma che vuol dire? Non ti vorresti trovare, ma non è che giudichi, non c'è niente di cui. Non ho quei gusti lì. Avrai altri gusti, esatto. Benissimo, avrai gusti più tradizionali. Non dico le tradizioni né normali, non uso questi termini. Vabbè, però... hai gusti, diciamo, normali, ma non è mica un delitto, Ma i soldi, in realtà, caro Pellegrin, per dire quello che dici, te li diamo noi. Cioè, noi non prendiamo nessun soldo, perché quello che tu hai detto di Confindustria è una cazzata pazzesca, non c'entra niente con... Ma più che altro lui fa interi pezzi di trasmissione, citandoci. Quando noi chiudiamo, perché prima o poi si chiuderà questa saga di Radio Padania qui alla Zanzara, qui lì c'è crollo, chiude tutto. Chiudete la Claire, di che parlate, Pellegrin? Non parlate più di nulla, amico mio, di nulla! E poi io non detesto nessuno, io non ti detesto. Se tu mi detesti, detestami, che mi frega a me? Ti fai il sangue amaro tu, io no. Ma abbiamo con noi uno dei protagonisti delle cronache di questi giorni, abbiamo già avuto qui ospite qualche mese fa, Simone Coccia, buonasera. Buonasera, salve. Ciao Simone, come stai? Ciao, benissimo, grazie, tu? Bene, ho pronunciato correttamente Coccia, perché qui ogni tanto... Assolutamente no, il mio cognome è Coccia con l'aiuta. Bene, Coccia con l'aiuta, Simone Coccia con l'aiuta. errore clamoroso mio, Parenzo. L'hai visto dalla D'Urso, dalla tua amica D'Urso, anche mia amica, Coccia, Simone e la senatrice Pezzopane, Parenzo? Come no, ho visto tutto, ho letto anche l'articolo sul Corriere della Sera, addirittura di oggi, quindi voglio dire, è una questione politica, è una questione di costume. Politica mi sembra no. Anche politica, se anche se il Corriere della Sera ha deciso giustamente di dedicarci spazio nella parte politica, mica nella parte di costume. Beh, certo, perché la storia d'amore di una senatrice del Partito Democratico, fieramente anti-berlusconiana, che pare si debba sposare, ma non si sa bene, con un signore che fa un mestiere. Ma questi sono snobismi. Io non capisco perché una senatrice del Partito Democratico non può fidanzarsi e forse anche sposarsi con un signore, con un ragazzo di 30 anni più giovane e che fa un mestiere magari lontano da quello della sua compagna. Che cosa fa lei esattamente? Perché c'è una sono una serie di cose insieme. Cosa fa, signor Coccia? Allora, io ero ex spogliarellista, vengo definito così, attualmente non lo faccio più da un paio di anni. Studio, mi sto indirizzando nel settore cinematografico, sono stato in America per motivi di lavoro. Che vuol dire studio? Che stai studiando, Simone? Scusa. Io adesso studio inglese, sto perfezionando la lingua inglese, faccio dei corsi e ho questo progetto in America, il quale sono andato a studiarlo quest'anno, sono stato 2 settimane in California. E che hai fatto 2 settimane? Cioè? Ho incontrato alcuni produttori, alcuni registi con i quali potrebbe esserci una futura collaborazione. Cioè, vuoi fare il produttore cinematografico? Che vuoi fare? No, assolutamente no, vorrei intraprendere la carriera d'attore. Vedremo. Ah, vuoi fare l'attore? Sì, senti una cosa, ma tu hai fatto per adesso hai fatto spogliarellista, tronista, poi come si può dire? No, tronista no, per carità. Parentesi. No, molti giornali si stanno. Ma mica stanno è un delitto, mica no, un delitto. No, perché magari potrei assumermi un ruolo che non mi appartiene. Io non sono stato tronista, ma sono stato corteggiatore. Ah, corteggiatore. Sì, andai lì in trasmissione da Maria De Filippi poco tempo, ma non ho fatto il corteggiatore. Senti, ti posso fare una domanda un po'? Certo. Ma tu trovi più sexy la tua compagna, la senatrice Pezzopane, oppure Maria Elena Boschi, che è quella considerata nel Partito Democratico molto sexy, molto bella, giovane? Dai, dimmi la verità. Simone. Io sinceramente trovo sexy la mia donna, giustamente amo lei, mi piace lei, quindi altre donne non ho motivo di giudicarle o di quantificare. No, certo, però guardandole tutte e due, cioè tu chi adesso lasciamo perdere che la tua fidanzata, se uno dovesse dire, tu proprio verso chi sei attratto, verso la tua fidanzata o verso la signora Boschi? Verso la mia fidanzata, la senatrice Stefania Pezzopane. Quello vabbè, d'accordo, questo lo sappiamo. Cioè, tra lei e la Boschi preferisci lei tutta la vita? Cioè non ti attira la giovinezza della Boschi, 27enne, no, la freschezza? Assolutamente no, anche perché nella vita credo che la bellezza conti ben poco. Nella vita ci serve un pizzico di cuore, un pizzico di cervello. Oggi si punta tutti alla bellezza e fondamentalmente poi non ti porta da nessuna parte. Mi stai dicendo che la tua compagna è bruttina con questo, però? No, io ti sto dicendo che la mia compagna, oltre a essere bella, è anche intelligente. Poche donne hanno l'uno e l'altro. Questo vuoi dire che la Boschi non è intelligente? Cosa? Vuoi dire che la Boschi, per esempio, non è intelligente? Ma io non la conosco, quindi non posso giudicarla. Probabilmente sarà una donna intelligente, però io stando con Stefania Pezzopane mi piace. Non la guardi nemmeno, diciamo. Chi? La Boschi? La Boschi. Ma non c'ho nessun interesse per guardarla, non c'è motivo, assolutamente. Un attimo solo, ci fermiamo qui, riprendiamo con Simone Coccia, non Coccia, perché mi è venuto in mente Coccia? Sono impazzito. Parenzo, sei basito? Che c'hai? Sei fermo? No, volevo dirti che non è che tu, ma magari ne parliamo dopo. Lui giustamente è innamorato della signora Pezzopane, cioè della sua fidanzata. Beh, certo. Per chi gli chiedi se guarda le altre donne? Beh, magari è normale. Chiedi anche, a lei piacerebbe, come a me, come hai detto tu nella tua intervista, a lei piacerebbe ad esempio vedere la sua gentile signora, posseduta da altri. Vabbè, anche perché gli devo chiedere delle cose intime? Io non penso, ad esempio, che lui... Magari che è uno fedele, lei è fedele, lui o tradisce? Scusi, Simone, tu mi confondo tra lei e tu. Tu sei fedele o tradisci? No, io assolutamente fedele. Io sono. In genere sei fedele. No, in genere sono sempre stato fedele con Stefania, ancora di più perché è una persona che mi ama tantissimo, che io amo tantissimo e non mi permetterei mai di tradirla, del male, soprattutto per questioni sentimentali, perché non se lo merita. È una bravissima donna, quindi. We'll be right back. signor Paolo Ruffini, siamo al top, eh? Siamo al top. Come va? Buonasera. So che... Pierluigi Pardo e Paolo Ruffini utilizzano l'espressione, devo dire, inaugurata qui da David Parenzo, le cose bisogna dirle, siamo al top, siamo al top. Siamo al top! Siamo al top! Siamo al top! Messaggio di speranza per il paese! E nella giornata in cui Alfano dice stop alla trascrizione in Italia dei matrimoni gay all'estero, nella giornata in cui Tavecchio, il presidente della Federcalcio, viene sospeso per 6 mesi per le sue frasi considerate razziste di qualche mese fa, viene sospeso dall'UEFA, ma Luciano Moggi dice che questa squalifica sostanzialmente non serve a nulla perché in Italia potrà continuare a fare quello che vuole. In questa giornata, caro Parenzo, noi ospitiamo chi? Ospitiamo, beh, il fidanzato della senatrice del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, Simone Coccia, buonasera. Buonasera a voi, ciao. Buonasera ancora. Allora, Simone, io voglio chiedere... No, volevo però dirti questo prima, perché l'originale, quando lo inventammo, dai, 4 anni fa, sì. L'originale vero è questo qui. Beh, amico mio, siamo al top. C'è il calo di cose, cioè, amico mio, siamo al top, c'è il cambio di tono, dici tu. David? Esatto. Ma non ti puoi distrarre mentre facciamo sto cazzo di trasmissione, dai. Ti devo passare una persona. Ma però, dai, su, aspetta, chi è? Aspetta un attimo. Mamma mia, dai. Sempre in giro, chi è? Ciao, sono un amico di Parenzo, un amico sfruttato, diciamo, gli sto smontando il tetto della veranda. Come gli stai smontando il tetto della veranda? Scusami, ma uno non può fare i cazzi suoi mentre fa la trasmissione. Ti spiego. Domani inizia una festività ebraica che è chiamata la festa delle capanne. Ma chi se ne fotte? Ma chi se ne frega? Io sono con te. Cioè, ma non me ne sbatto i coglioni io di tutte queste festività ebraiche! Non ne posso più di queste festività! Ma quando cazzo lavorano questi? Quando lavorano? Bene, quanto mi piaci. Quando lavorano questi qua? Festività e che cazzo? Questo cialtrone mi sfrutta. Ma non ho capito, ma tu esattamente chi sei adesso, per carità? Ci siamo conosciuti a Siena, al Palio, ti ricordi? Ah, come no? Sì, certo. Ma perché ti sta sfruttando? Non ho capito. Perché mi ha detto mi aiuti a fare una cosa facile, sono arrivato qui e c'è da levare... Sì, ma lui deve essere... Ma è una cosa pazzesca, come si fa a fare la radio in questo modo? Guarda, bisognerebbe che qualcuno prima o poi gli sbatte una porta in faccia e poi vediamo come si comporta. Ripassamelo, dai, grazie, ciao. Te lo ripasso. Sempre a fare le festività del cazzo. Allora, caro Simone, voglio chiederti una cosa, ma questo matrimonio sa da fare o non sa da fare? Cioè, si farà sto matrimonio o no? Adesso sinceramente, assolutamente sì, ma non ora, è troppo presto. È troppo presto, che vuol dire? Ci siamo fidanzati da qualche mese, insomma sembra un po' prematuro parlare di matrimonio, quantomeno sposarsi adesso. Ma più o meno, avete già immaginato una data? Lo decideremo nel momento in cui ci sentiremo. Ma 2015? Ma non può essere 2016, 2017, non si sa. Vedremo, vi terrò aggiornati su questo. Magari verrei tranquillamente. Però voglio dire, ma dove sogni di sposarti, per esempio? C'è un posto dove sogni di sposarti con Stefania? Ma guarda, Venezia non sarebbe niente male, eh? Venezia. Ma lei non si può... perché ci sei sposato George Clooney, perché Venezia comunque è una delle città più belle e romantiche d'Italia. Pure degli amici miei, l'avvocato Trucco si è sposato a Venezia, caro Parenzo, lo sapevi te questa cosa, che l'avvocato Trucco? No, questo è l'avvocato Trucco con la signora Samignoni si sono sposati a Venezia, dunque non è che si sposa solo George Clooney a Venezia, si sposano anche persone normalissime, persone per cui non ci sono folle, adoranti, no? E anche Simone ha un sogno, sposare la senatrice Pezzopane. Ma Simone chi? Simone Bempora? No, Simone Coccia, non un amico nostro, sta parlando di amici nostri. Simone Bempora, che ne so io, scusami. No, volevo chiedere al mitico Simone questo. Lei, anche lei ha questa perversione che ha il signor Cruciani di leccare i piedi della signora Pezzopane? No, non credo. No, assolutamente. Bravo, assolutamente. E cosa le piace? Cosa? No, cioè non adesso Parenzo ha fatto queste domande, io non c'entro niente, Simone, è Parenzo che fa queste domande. Ci mancherebbe, rispondiamo a tutte le domande. Non c'è però problema. Scusi un attimo, allora, lei dice il sogno di sposarsi a Venezia, però non sa quando. E la storia dei tatuaggi, perché dice Stefania che tu hai 60 tatuaggi, possibile? Sì, sì, 61 ne ho. Ne 61. 61? Ma come si fa a farsi 61 tatuaggi? Dai, arriverà, anche una, arriverà anche il 62esimo, probabilmente sarà quello di Stefania, anzi, dedicato a lei. Confermo. E che tipo di tatuaggio? Ah, me lo confermi? Beh, cioè, tu... mo non te lo posso dire. No, dai, no, no, no, no, no, fa... no, Simo. Quando un'idea, lo farò ti un'idea, manderò una foto. Un'idea, dai, Simo, un'idea ce la devi avere. Guarda, ti dico la verità, un'idea ce l'ho. Appunto, dimmela, dai. Dimmela. Una frase con una foto nostra sopra. Ah, una frase un'idea. Di che? Ah, un'idea. Una frase con una foto vostra. Come si fa a fare il tatuaggio con la foto? È difficile, però. Certo, come no? Certo. Si può fare tranquillamente, il tatuatore è capace anche di fare la foto, c'è cioè una foto vostra che vi date un bacio, magari quella la foto che è uscita sui giornali che vi baciate dalla Tuzza. Due foto guancia a guancia, dai, il bacio no, è troppo esagerato. Vabbè, bacio mica è mica guancia a guancia, una bellissima frase, una dedica d'amore sotto. Una dedica d'amore sotto, ma è un tatuaggio lungo, ma c'hai 61 tatuaggi, non avrai più spazio, ma, dove te lo fai sto tatuaggio? No, spazio, siccome ho tantissimi muscoli, sì. Quindi un po' di spazio. Beh, certo, la spogliare lista. Ma dov'è che, scusa. Dove te lo fai sto tatuaggio per lei? Guarda, devo vedere perché gli spazi ci sono, ma sono pochi, devo vedere dove appunto. Si trova bene il tatuaggio. Ah, più o meno, più o meno. Ma non lo so, sul petto, sulla gamba, dipende, oppure dietro la schiena, dietro la spalla, una spalla libera ancora da tatuare, penserò di farlo lì. Ecco, dietro sulla schiena, diciamo, sì, sulla schiena. Sì, niente sì, cose sì. Osè, diciamo, non sulla parte intima, no. Assolutamente ecco. No. Ma non ce l'hai lì tatuaggi? Assolutamente no. Lì è tutto libero, tutto. Ma tu sei uno che ti depili, no? Per curiosità, perché di solito gli spogliarellisti sì, per mestiere anche, no? Ma sono cose che non ti dico. Perché non mi... Che paraculo che sei. No, perché scusa? Perché paraculo? Allora, scusa. Io ti dico che tra virgolette se mi depilo per questioni sportive, perché essendo un grande sportivo magari certo, sai, la pelle è più fresca, i muscoli respirano di più, insomma. Cioè non ci sono motivi sessuali, dici te? Assolutamente no, motivi diciamo di igiene. Motivi di... Scusa, però io sono fissato con le persone più anziane, diciamo, di me. No, sono un po' della tua partita, sono della tua banda un po'. Cioè, mi piacciono le persone più grandi, l'ho detto anche in un'intervista su Dagospia, eccetera. Ecco, ma cosa ci trovi di particolarmente eccitante? Cioè, il fatto che sia di 30 anni più grande lo trovi eccitante come no, cosa? No, aspetta, no, già sbagliato niente. Perché non sono 30 anni, sono 24. 24, sì, vabbè, io ho detto 30 così per semplificare. Vabbè, sono 6 anni. È importante, sì, 24, è importante, sì, è importante, 24. Cioè, ci trovi qualcosa di particolarmente eccitante in una donna di 24 anni più grande di te, Simone? Ma io questo non ti posso dire, non ti do una risposta... È ben chiara, ti dico che comunque sto bene. Se una persona sta bene con un'altra persona, vuol dire che sta bene. Cioè, tu non sei fissato con quelle più grandi? No, cioè, non è questione di essere fissato con quelle più grandi, è questione che io mi trovo bene con le persone con le quali c'è amore. Che sia stata Stefania, poteva esserci anche un'altra persona. Ci poteva essere una di 30 anni. Io lo capisco. Cioè, allora, ti dico, poi puoi fare una domanda. È una MILF? È una MILF? Non ho capito. È una MILF? Secondo te o una perché? No, perché le MILF sono quelle lo conosci? Sai cosa vuol dire MILF? No, spiegami cosa vuol dire. A MILF significa Mother I Like to Fuck. È un'espressione molto in voga tra i ragazzi, che significa le madri che vorrei, con cui vorrei andare a letto, tanto per usare una. No, non è lei è mamma di una bellissima figlia di 16 anni, ma non ho questi pensieri riguardo lei. Cioè, noi è una storia. No, ma indica le donne. No, ma indica semplicemente le donne che hanno una certa età e che avranno già avuto dei figli. Non è una cosa volgare, non è una cosa volgare. Anche io ho un figlio di 9 anni, ho 31 anni e un figlio di 9 anni. Quindi ma vorresti avere un figlio? Vorresti avere un figlio da Stefania? Ma questo non credo, cioè, come dice Razzi. No, assolutamente no. Questo è un discorso che al momento non abbiamo aperto, perché comunque lei ha già una figlia, io ho un figlio, stiamo bene così. E quindi. Poi 54 anni è un po' troppo, veramente. Magari si può adottare. No, non è vero, perché se ben ricordate, la Gianna Nannini l'ha fatta oltre 55 anni, quindi insomma... Non è esclusa come cosa, non è esclusa. No, ma non è che non è esclusa, lei è ancora sta... Cioè, i suoi 54 anni, e quindi se vorrebbe fare un passo ragazzo del genere lo potrebbe anche e poi fare, li porta bene, che... no? Li porta bene, secondo me, non è che li porta male. Assolutamente sì, lei è una bellissima donna. Ma adesso bellissima, no. Simo, dai, adesso non esageriamo, però io per carità ho grande, per carità, ti abbraccio fortissimo, sei una persona che parla in maniera franca, sincera, però non è che si può dire bellissima donna, dai. È una, guarda, è una bella donna, nonostante i suoi 54 anni si riporta stra bene. Io vedo donne di 30 anni che ne dimostrano 80, quindi rovinate, insomma, dici te, rovinate. No, sì, a voglia, cioè a 30 anni. Ma lei pure è un po' rotondetta, forse qualche chilo, ma no? Guarda, guarda, a me le forme mi piacciono, a me i manici di scopa non mi sono mai piaciuti. Sì, quello è vero, quello ti do ragione. Parezzo, su questo bisogna dare ragione. Ma i cani, a noi ci piace la ciccia. Eh sì, è vero, come si dice, sì, come si dice in, com'è che si dice in abruzzese? Come si dice? No, la ciccia, la, mi piace una in carne, non mi ricordo, c'era un'espressione. Senti, però, io voglio dire, lei è senatrice del partito... Volevo capire questo, però, no, dal nostro amico simpatico. Simpaticissimo, Simone, numero qualora, uno, assoluto. Qualora l'amore della tua vita ti chiedesse di tatuarti il Jobs Act, no? Ma che c'entra il Jobs bellissimo Act? Ma che... sul petto, in segno d'amore, un pegno d'amore, dice, amore mio, tatuati il Jobs Act su cui abbiamo chiesto la delega, lo faresti? I punti principali. Ma che tatuaggio del Jobs Act? Ma che domanda è? Ma Parenzo, veramente sei rincoglionito ormai? Cioè, io voglio chiedere un'ultima cosa a Simone, che è questa. Lei è una senatrice del Partito Democratico. Sì, sì. Tu però, dimmi la verità, qualche volta Berlusconi l'hai votato? No, io... Mai votato, perché... Berlusconi? Mai votato... No, ti dico, mi hai fatto una domanda e ti do subito una risposta. Io, Stefania, prima di averci questa... bellissima amicizia, ti ripeto che abita vicino casa a 100 metri, quindi sì. L'Aquila è piccola, lei è sempre stata una grande politica nella città dell'Aquila e ora pure in Italia. Io ho sempre votato Stefania perché all'Aquila è l'unica delle poche donne, l'unica politica che si è... Tu non hai mai votato Berlusconi? Qualche volta l'avrei votato Berlusconi in vita tua? No, io ho sempre avuto preferenze... Sempre di sinistra? Sempre di sinistra? Assolutamente sì. Io già la votavo e già la stimavo, poi è nata l'occasione di poterci conoscere. Comunque è successo quello che attualmente sapete tutti quanti, insomma, no? Vabbè, Simo, si può dire che sei il toy boy di Stefania? No, non si può dire. No, dai, è brutta, una brutta cosa. Ti dicono tante cattiverie. No, quello è vero, tante cattiverie, è vero. Che tu sfrutti allora questa cosa per visibilità. Allora, se si parla di discorsi politici tra destra e sinistra, posso capire che se ne dicono di tutti i colori, però credo che indipendentemente dal lavoro un rapporto di coppia non deve essere giudicato da nessuno. Quindi l'amore non si può giudicare. Il compagno di Stefania, siamo una coppia di innamorati come tanti altri, che abbiamo avuto questa fama per questo nostro rapporto, però nulla toglie che comunque siamo una coppia normale come tutti, ci amiamo, non ci sono interessi. Ti abbraccio fortissimo, ciao, ti abbraccio, ti ciao Simo. Luca, Roma, per concludere, no, sono spariti tutti, domani 18:30 vi richiamiamo, Parenzo, dove sei? Puoi andare a fare i cazzi tuoi, ciao. No, sto costruendo. Ma dai, su, dai. Ma quale maglietta di Radio 24? Cioè, ma io voglio la maglietta dei razzi, la sto aspettando. Cioè, la maglietta Radio 24, ma che ci devo fare con la maglietta Radio 24? Voglio la maglietta dei razzi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ve lo dico a voi due, d'amico, fatevi i cazzi vostri. Radio 24, la passione si sente.